ci renda l'inverno una stagione amica. Qua è durissima, perché stamattina altro che il buon umore, il cuore è così grigio. È così... L'alimentazione può fare tantissimo in questo caso, essenzialmente tutte le giliacee, quindi aglio, cipolla, scaloni, asparagi, che sono anche setiliaci, di questo lo sappiamo. Però racconto un episodio per spiegarmi meglio. Io 20 anni fa accompagnavo dei pazienti nella migliore cardiochirurgia del mondo, Houston, professor De Bakey. Nacque con lui un filo d'amicizia, un giorno gli portai dei pasticcini. Mi guardò, mi ringraziò, io avevo 40 anni, e mi disse: guarda, ti ringrazio anch'io dandoti dei consigli per il cuore. Se vuoi salvare il tuo cuore, devi camminare tanto, non fumare, e fin qui va bene, un pompelmo al giorno e 3 volte la settimana zuppa di cipolle. Io rimasi un po' così, 20 anni fa non mi occupavo di fitoterapia, poi piano piano ho capito il significato di queste parole verissime. Perché? Perché nella cipolla, nell'aglio è presente la quercetina, che è in assoluto la sostanza più utile in campo vegetale per il cuore. Noi sappiamo, noi abbiamo studiato con l'Università di Pisa dei soggetti in alcune zone, ad esempio in Garfagnana eccetera, che fanno un grande uso di queste giliacee, che ovviamente non fumano, che stanno bene eccetera. Beh, la percentuale di infarto si abbatte tantissimo. Potrei citare ancora un altro studio molto carino. Sono stati studiati i mormoni 3 anni fa. I mormoni hanno l'abitudine, una volta alla settimana, di fare digiuno con sola frutta. Cosa accade? Che le patologie cardiovascolari si abbattono in questi soggetti di quasi il 30%. Quindi se noi mettiamo a riposo durante la settimana, una volta alla settimana, con dell'acqua e della frutta, senza mangiare altro, quindi un filo di digiuno, abbattiamo notevolmente la percentuale di patologie cardiovascolari. In poche parole, se mangiamo poco, se mangiamo bene, se scegliamo alcuni alimenti, se eliminiamo tutti quegli alimenti mercenari, tanto pubblicizzati, ma poi ricchi di olio di palma, che è lesivo per le coronarie, beh, io credo si possa stare veramente meglio. Dottor Vestita, le dico di più. Io adoro la zuppa di cipolle. Chiederemo al nostro chef Stefano Polato, chef di Mangia con me, di prepararci una ricetta per la zuppa di cipolla e la metteremo sul sito di Mangia con me. Invitiamo il dottor Vestita ad andare a leggerla e a provarla, e poi così, così cipolla aiuta il nostro cuore, la prepariamo a regola d'arte. Mi manca il pompelmo, che io consumo, devo dire, quotidianamente nella versione rosa, con un po' di miele e dell'aceto di lampone o di mele, ed è una cosa una bontà, dottor Vestita, quindi il mio cuore ringrazia. Ma ringrazio, sì, devo dire che i pompelmi adesso sono anche italiani. Ho fatto un Linea Verde alla RAI poco tempo fa, vedevo queste piantagioni di pompelmo bellissime, sono frutti nostri, sono ancora acerbi, bisogna aspettare per la loro stagionalità, almeno inizi gennaio, ma vi assicuro, una cosa passando di palla in frasca, nel pompelmo è stata isolata, ricordo, la naringenina, una molecola capace di limitare, di frenare il virus dell'epatite C. Quindi se frena questa malattia gravissima, immaginiamo i miracoli che possa fare anche in altre patologie, quali ad esempio quelle influenzali che stanno arrivando, che per il cuore non sono un regalo.